Potete accomodarvi. Io spero che questo sia proprio il sentimento nell'ascoltare la parola di Dio, rilassarci, sederci, bello. Buongiorno Chiesa, l'hai detto già a chi ti sta a fianco? Sì. Che bello averci e essere famiglia in questo. E io stavo lì e vedevo il gruppo Lode, poi il pastore Mirko, e pensavo, mo deve salire il vecchietto, vedere tutto. Io non mi sento, sono gli altri che me lo dicono, ma io quando mi guardo allo specchio dico, ma quanto sei bello. Perché questo deve essere il sentimento di ogni credente nel vedere se stesso riflesso in quello che Cristo Gesù vuole fare di noi e vuole che noi siamo per Lui. Vogliamo partire subito questa mattina con i passi della parola di Dio e leggiamo quanto è bella la tecnologia, così non perché il libro è bello, ma le parole giocano. Come mai ballano le parole? Sarà quella l'età, Ma la tecnologia ci aiuta. Vogliamo leggere insieme? Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Fino a qui era tutto. Qual è il soggetto di questa mattina? Di che parliamo? Ma ci siete? Ci siete, sì, eh? Allora, datevi una sventolata e il soggetto è? Figli, figlio, va bene. Abbiamo preso in un qualche modo. E perché? Perché adesso io vi darò l'opportunità di esercitare il ministero dell'incoraggiamento. Va bene? Vi ricordate la predicazione del padre? Dite sì, così incoraggiate. E per quelli che non si ricordano come me, parlammo di Giuseppe, il papà di Gesù, e le attitudini che lui aveva come padre e che permisero di ottenere la vittoria più grande di tutti i tempi. Lui accettò, vi ricordate? Accetta tuo figlio. E non parliamo di figli solo naturali, anzi stiamo parlando soprattutto di figli spirituali, quelli che il Signore ci affida. Accetta, perché se accetti puoi costruire sopra, se non accetti distruggi. Poi Giuseppe che cosa fece? Protesse dette protezione al suo figlio, vi ricordate, andò in Egitto per proteggerle, tutto quanto, tornò, lasciò lavoro, ogni cosa. È nella protezione che noi possiamo costruire, è nella protezione che tu non perdi tuo figlio. Proteggendolo non lo perdi e puoi costruire. E l'ultimo aspetto dell'essere padre che vedemmo è unì la famiglia. Vi ricordate quando era unita la famiglia di Gesù? Erano uniti nell'andare a recuperare Gesù perché stavano forse criticandolo, allora avevano sentito, sta lì. Erano uniti nella sala di sopra a pregare insieme, erano uniti nello svolgere il ministero perché proprio il fratello Giacomo era il responsabile della chiesa di Gerusalemme. Tutte queste cose ci rendono padri di quelli che il Signore affida a noi. Però, non si è padri se prima non si è figli. Se sei figlio, se sono figlio, sono in grado di diventare padre, ovvero protettore, colui che accetta, colui che unisce ogni cosa. Il figlio, prima di tutto, noi dobbiamo esercitare, o meglio alimentare, o costruire le attitudini di figlio, perché sono quelle attitudini che ci permettono, ma sia naturalmente, ma soprattutto spiritualmente, ma anche naturalmente, non lo sottovalutiamo questo, che ci permettono di raggiungere le vittorie più grandi, che ci permettono di realizzare, di essere padri e quindi aiuto anche per gli altri. Io per dire, per fare l'esempio mio, io non ho mai avuto l'esempio di un padre, perché voi sapete che mio padre morì quando io avevo 3 anni, non sono cresciuto con un'immagine di padre, però ho avuto diversi padri spirituali. E immaginate che uno di questi padri spirituali che io ritengo che ha cambiato il corso anche del mio ministero è parecchio più piccolo di me. Quindi, per essere padri o figli, non devi essere per forza più grande o più piccolo. Intendiamo questo che il Signore sta affidando a noi. Pertanto, perciò, noi vogliamo vedere questa mattina qual è il percorso del figlio per realizzare vittorie, per realizzare l'essere padre. E come lo faremo? Me lo dovete dire voi. Voi dovete adesso entrare nella mia testa, perché lo conoscete. Come farò per mostrare il percorso che i figli devono fare o avere? Era meglio dire con personaggi della Bibbia, era quello che voleva dire Adriano. Benissimo. Io non mi disco, sono così belli gli esempi di nostri fratelli, antenati spirituali che hanno vissuto nella pratica. Perché mi devo andare a sforzarmi a inventare delle cose per me stesso quando ci sono e io le posso vedere e confrontarmi e crescere e svilupparmi in quello? Confrontiamoci con i percorsi che ci sono nella parola di Dio e questo ci permettono di svilupparci e crescere all'immagine, come è scritto nella sua parola, all'immagine del Signore stesso. Perciò ci serviremo di alcuni esempi di personaggi della parola di Dio. Loro hanno già tracciato il percorso e hanno lasciato questa traccia e noi possiamo benissimo percorrere quella traccia per ottenere le stesse vittorie e non commettere gli stessi errori, perché a questo serve. E ci serviremo di una famiglia, di tre generazioni. Iniziamo con Davide, va bene? Davide, non andremo a leggere i passaggi, semmai io ve li darò e poi a casa possiamo leggere queste storie che vi assicuro sono qualcosa di incredibile. Ti parlano talmente direttamente che alla fine diventi tu Davide. Altro che andiamo a vedere le telenovela e le lacrime e le cose. Nella parola di Dio c'è molto, molto di più. Davide, in 1 Samuele, al capitolo 16, vediamo che lì inizia la storia di Davide. E la storia di Davide come figlio, sapete come inizia? Con un'attitudine molto forte. Ascolta. Il padre lo manda, logicamente questo è un esempio naturale perché parliamo di un padre naturale, però noi lo dobbiamo ribaltare nella vita di chiesa, nella vita di credente e di quello che il Signore ci affida a fare. Davide inizia il suo percorso con ascoltare il padre lo manda a pascere le pecore. E lui va. E lui pasce le pecore. I fratelli no. I fratelli sono sempre in giro. Vanno a fare battaglie, vanno a fare altre cose. Lui pasce le pecore del padre. E sta lì anche nei momenti più importanti. Vi ricordate quando Samuele è andata nella casa del padre di Davide, Isaì, per ungere addirittura il futuro re di Israele? E dov'era Davide? A pascere le pecore. Il momento più importante, più rilevante nella vita di questa famiglia, lui era a pascere le pecore. Incredibile. E lui ascoltava, poteva lamentarsi dal padre, come dice, un evento così importante, mi mandi a pascere le pecore. Come una cosa così per tutta la famiglia e io non ci sono. Lui non ha sviluppato questo, perché nel pascere le pecore, nello stare lì, ha sviluppato il vero senso dell'essere figlio. Non c'è stato periodo più intenso nella vita di Davide, non c'è stato momento più importante nella vita di Davide. E Davide è stato un personaggio molto importante, ma questo era il periodo di vita più importante, perché è in questo periodo di vita che lui ha realizzato una comunione incredibile con il Padre. Lo sentiva proprio parlare, lo sentiva che veniva ispirato, ed è in quel periodo di vita che lui ha realizzato molti dei salmi che noi leggiamo e che il Signore gli ha ispirato. E lui, possiamo dire che per il resto della sua vita, fatemelo dire così, per il resto della sua vita ha vissuto di eredità, di questo periodo. Tu puoi vivere di eredità di un periodo importante della tua vita quando diventi figlio, quando ascolti. E non solo allora. Vi ricordate, Israele era in guerra, una grossa guerra con i Filistei e là era tutto sotto sopra. Davide dov'era? A pascere le pecore. Era a pascere le pecore. E il padre lo ha mandato in guerra, ma non per fare la guerra, non per essere un guerriero, non per essere al pari dei fratelli, non per mostrare la sua figura di capacità nel guerreggiare, no, per fare che cosa? Portare il formaggio e il pane ai fratelli, servire i fratelli. Non è incredibile questo? A servire i fratelli. È andato lì a servire il fratello, però ricordiamoci che Davide nel periodo più importante della sua vita aveva acquisito, aveva imparato, era stato costruito su due aspetti molto importanti. In quel periodo della sua vita era diventato molto forte. Vi ricordate la sua testimonianza? Quando si presentava un orso o un leone, con la forza che il Signore mi dava, io gli ho aperto le loro fauci. Lì è diventato forte Davide, era un vero combattente, un vero guerriere. E l'altra cosa che ha sviluppato è stato là il coraggio. Era il più giovane, era il più piccolo, era di bell'aspetto, quindi delicatuccio, deboluccio, noi non so come lo vogliamo dire, ma lui lì ha sviluppato il coraggio di non indietreggiare. Perché? Perché semplicemente nella relazione che aveva con il padre, lui ha costruito la sua sicurezza, lui ha costruito la sua identità, lui sapeva chi era e sapeva esattamente dove doveva arrivare con a fianco il Signore. E infatti non ha temuto nemmeno i giganti. È lui che è andato ad affrontare i giganti. Questo è il percorso del figlio che ascolta. Non era onorato, non era semmai importante nella famiglia, ma era uno che ascoltava il padre. Non era onorato quando il profeta Samuele è venuto, non era onorato quando è stato mandato a servire i fratelli. Che cosa faceva? Che cosa stava facendo nel frattempo? Pascolava. Ma in realtà no, non stava pascolando, stava ascoltando tutto quanto il Padre Celeste gli stava dando e stava costruendo tutta la sua armatura interiore per diventare quello che è diventato un figlio. L'attitudine più grande di un figlio, e parliamo spirituale, è quella di ascoltare. Anche quando vieni mandato a fare cose che forse ritieni inferiori alle tue capacità, anche quando vieni mandato a fare cose che non ti onorano come dovresti essere onorato, ma lì costruisci la vera personalità nel Signore. E ricordati, puoi vivere di eredità, così come Davide ha vissuto. Perciò, anche quando sembra che è niente quello che ti viene dato da fare o quello che ti viene richiesto da fare, non è così. E qui c'è la storia del fratello. Un po' tutti lo siamo, anche noi, del fratello del figlio al prodigo. Noi siamo un po' tutti fratelli del fratello del figlio al prodigo. Questo fratello del figlio al prodigo, non si sa nemmeno il nome, è stato sempre con il padre, ha sempre ubbidito al padre, ha sempre ascoltato quello che il padre diceva, ha fatto tutto quanto il padre diceva. E quando è tornato il figlio perduto, lui si è sentito sminuito, si è sentito non onorato. Dice: a me nemmeno un capretto hai dato, qui hai ammazzato il vitello. A me nemmeno mi hai fatto fare festa con gli amici miei. Anche quando sembra che quello che stai facendo potrebbe essere agli occhi tuoi insignificante o di poco conto, renditi conto che stai costruendo quello che il Signore vuole realizzare con la tua vita. Infatti, che cosa fu detto al fratello del figlio al prodigo? Che cosa rispose il padre al figlio? Disse: quello che è mio è tutto tuo, siamo insieme. Ecco perché noi dobbiamo aprire gli occhi a quello che stiamo facendo, perché sembra invisibile. Cioè, scusate se non finisco le frasi, però poi mi vengono, c'è una propaganda, va bene, c'è una propaganda. C'è un uomo fermo, appoggiato così, e c'è un uomo che cammina speditamente, va bene? E l'uomo fermo, io lo dico in italiano, però è scritto in dialetto, va bene? E l'uomo fermo dice a quello che cammina speditamente, dice, apri gli occhi, che c'è il vetro. Apri gli occhi, che anche se non stai vedendo quello per cui lavori e costruisci, c'è qualcosa di molto stabile, di molto forte davanti a te, che il Signore ha preparato. Questo fa l'attitudine di ascoltare, ma sia naturalmente, non sottovalutiamo il fatto naturale del figlio naturale che ascolta il proprio padre, ma soprattutto spiritualmente, perché il Signore ci ha chiamati sia a essere padri, ma soprattutto a essere figli. Il secondo esempio, continuiamo perché il tempo scorre, il secondo esempio è il figlio di Davide. Chi era? Alzare, che io so pure duro d'orecchio, oltre che di occhi. Salomone, il figlio, è scritta la storia in Uno Re, al capitolo 2, dal verso 1 in poi. Il figlio di Davide, Salomone. Vi ricordate un poco la storia, la diciamo velocemente. Absalom era il primo figlio, era quello che doveva ereditare il regno, ma quello ha fatto la strada sua, e conosciamo più o meno la storia, la strada sua, ribellione, ha voluto costruire il suo. Secondo voi, poi, se il primogenito muore, chi viene dopo? Il secondogenito, che si chiamava Adinai, una cosa del genere, va bene, non i nomi. Era il secondo, e lui è scritto che era di bello aspetto, forte, alto, e lui riteneva che doveva diventare il re. Perché? Perché era di bell'aspetto, perché era forte, perché era il secondogenito, perché? E già aveva preparato l'esercito e già aveva preparato ogni cosa. Chi è diventato re di Israele? L'ultimo genito. L'ultima ruota del carro. Salomone, sapete perché? Salomone aveva una dote molto importante. Salomone sapeva aspettare e sapeva seguire. E lui seguiva. Non si è fatto mai avanti. Lui seguiva, e nel seguire ha appreso, ha imparato e ha fatto anche meglio del padre, il re. Lui ha seguito passo passo, come ha imparato anche dagli errori del padre, come non doveva fare, è diventato il re più grande di tutti. E lui, è tramite di lui che il regno è diventato più grande. È tramite di lui che il Tempio è stato costruito, la promessa di Davide l'ha realizzato Salomone, ha costruito il Tempio, ed è tramite di lui che il regno è diventato molto, molto ricco. Perché? Semplicemente perché sapeva seguire. E questo un poco mostra quello che Paolo ha fatto e ha detto a Timoteo. Vi ricordate la seconda lettera a Timoteo, al capitolo 2, al verso 2? Che cosa dice? Le cose che hai visto in me o fare da me o vivere da me, affidale ad uomini capaci che siano ad altri, che siano capaci di trasmetterli ad altri uomini. È incredibile, crea un'intera generazione Paolo, ed è proprio attraverso le cose che hai visto fare a me, il seguire, segui il tuo padre spirituale. Non ti porterà mai a fuori strada. Potrebbe sembrare che qualche volta lo sai meglio e qualche volta lo faresti anche meglio, ma è nell'ubbidienza del seguire che tu realizzi il carattere che ti fa diventare forte. In fondo Salomone ha fatto il regno grande senza combattere nemmeno una battaglia. È incredibile, Salomone non ha combattuto nemmeno una battaglia e il regno sotto di lui è diventato, non è mai stato poi più così grande come sotto Salomone, il regno di Israele è diventato grande perché lui ha saputo seguire, ha saputo proseguire, ha saputo realizzare le promesse che Dio aveva fatto a Davide. È incredibile, allora l'attitudine di ascoltare, di seguire, ci permette di crescere alla statura che Cristo vuole fare di noi. Ricordati, non sono le tue capacità. Ricordati, non è la tua conoscenza, non è la tua statura, ma è l'attitudine di ascoltare e seguire. Un ultimo esempio, e ci volgiamo verso il termine, un ultimo esempio, il figlio del figlio, Roboamo, figlio di Salomone, nipote di Davide. Qual è stata l'attitudine di Roboamo? Chi è che se la ricorda l'attitudine di Roboamo? Dici già il nome, dobbiamo andare dietro. Figuriamoci la storia poi. Per piacere, io vi supplico, veramente, andate a leggere le storie della Bibbia, perché contengono così tanto per l'insegnamento quotidiano. Sono state scritte 2000, 3000, 4000 e non lo so quanti anni fa, ma sono più attuali dell'attualità che noi viviamo, perché non hanno a che fare con i mezzi esterni, hanno a che fare con il cuore e hanno a che fare con la nostra vita interiore, e quindi sono valide perché è parola di Dio. Perciò andiamo, qual è la promessa che facciamo stamattina? Le storie, va bene, promessa fatta, Roboamo, l'attitudine di Roboamo, sapete qual era? Fare finta, sì, io lo so meglio, infatti fece finta di chiamare gli anziani che servirono il papà Salomone, fece finta di ascoltare quello che loro dicevano questi saggi, però poi chiamò i suoi, chi chiamò in effetti? E qui è molto importante, sapete chi chiamò in effetti? Chiamò chi era d'accordo con lui. Chiamò chi era d'accordo con lui. Quando qualcuno è d'accordo sempre con te, gatta ci cova. Vuol dire semplicemente che non è, vuole solo godere della tua fatica. E questi erano i giovani del periodo di Roboamo. Volevano godere del regno, volevano godere di essere comandanti, e loro incominciarono a dire consigli che non erano quelli che portavano alla vittoria. Roboamo ascoltò quelle. Perché ascoltò quelle? Perché quello era già quello che lui desiderava, quello che lui aveva nel cuore. Ha trovato la pezza a colore, ha trovato le persone che erano d'accordo con lui e poi si è sentito forte. La conseguenza qual è stata? il regno si è diviso. Si è diviso in regno di Giuda e regno di Israele. Due pezzettini, due piccole parti che hanno dovuto sempre combattere, che hanno dovuto sempre fare alleanze, che sono dovute venire sempre in compromessi. Ricordate questa parola. Perché? Per poter sopravvivere, per poter andare avanti. E non sopravvivevano e non andavano avanti perché erano sempre assoggettati ad altri. Perché? Perché quel figlio ha sviluppato un'attitudine che rompe. Vi ricordate, anche qui c'è una storia nel Nuovo Testamento che Gesù racconta di quel padre che manda alla vigna i due al campo, cioè i due fratelli. E uno disse, che disse uno? Sì, ci vado. Prima disse sì, quello là, poi viene quella del no. Disse sì, ci vado. E non ci andò. L'altro disse no o non disse niente e poi invece ci andò. È l'attitudine che noi sviluppiamo dentro di noi che ci permette di raggiungere le vittorie e essere padre. Quel fratello, semmai, quel secondo figlio, semmai, non era d'accordo. Non gli piaceva, non voleva zappare la terra, non era d'accordo con come il padre gestiva, tutto quanto. Però quando ha guardato dentro di sé, ha visto che quella era la strada da percorrere e quella ha percorso. Ed è a questo che il Signore ci chiama. Ora, il Signore chiama noi a sviluppare queste attitudini. Ora, logicamente, io ho preso solo alcuni esempi, ce ne sono altri, queste tre attitudini, proprio perché in questa maniera noi riusciamo a ricordare sempre il numero tre è perfetto, allora è facile da ricordare. Ieri ci hanno fatto fare delle promesse per le nostre mogli e io a mia moglie ho fatto tre promesse, così me le ricordo, più che altro perché me le ricordo. Ora, vedete, in questa maniera noi costruiamo l'essere padri facendo i figli e noi siamo contemporaneamente figli e padri. Non è così che fai una volta il figlio e una volta il padre. Siamo contemporaneamente figli e padri. E il Signore ci vuole che noi siamo figli, non solo creature sue, che noi possiamo aggrapparci a Lui come figli prediletti, come figli del cuore. Davide era tale, un figlio del cuore. Un ultimo esempio e termino proprio. Non è proprio tanto glorioso questo esempio. C'era un padre, non l'ho raccontato io, l'ha raccontato Gesù, quindi se ve la volete prendere sapete con chi. C'era un padre, che il bello è, l'ha raccontata e parlava di se stesso. C'era un padre che aveva un uomo ricco, che aveva una vigna e aveva dei lavoratori in questa vigna. E questi lavoratori, siccome loro sentivano, noi lavoriamo, noi produciamo tanto, noi siamo quelli capaci, la vigna è nostra. E infatti ha mandato il primo emissario, il secondo emissario. Alla fine dice c'è un solo modo per salvare il perduto e questo era mandare suo figlio. E Gesù stava parlando di se stesso. Ora, anche quando sembra che il sacrificio è grande, anzi no, diciamo diverso, più grande è il sacrificio che ci viene richiesto, è più grande, è più importante, è più potente, è la vittoria a cui il Signore ci prepara. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ognuno di noi, io credo, ha da posizionarsi con queste attitudini e prendere anche delle decisioni. Vogliamo pregare. Signore, grazie che noi abbiamo veramente delle tracce così indelebili davanti a noi. Sì, è vero, tante cose si presentano che ci stornano, che ci distolgono, che ci fanno smarrire, ma grazie che hai lasciato la tua parola come non solo come un insieme di regole per noi che sono difficili da seguire, ma l'hai lasciato come un esempio, come un modello da seguire. Io ti ringrazio per tutti questi uomini tuoi che hanno vissuto e che hanno realizzato il piano tuo e mostrato a noi e mostrato a me quella che è la tua visione. Signore, io voglio pregare per ognuno di noi questa mattina e io chiedo che ognuno possa porsi dinanzi a te come figlio quale noi siamo e rivedere le attitudini del nostro cuore e verso dove stiamo andando. Signore, mostra chiaramente a ognuno individualmente quello di cui abbiamo bisogno e addrizza la nostra rotta per piacere. Preghiamo questo non per i nostri meriti, ma per quello che Gesù ha fatto e realizzato per ognuno di noi. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Amen.